lui rilla me si vo morì, rilla me si vo morì, cosa avuto ciò facì. Roll lui rilla me si vo morì, rilla me si vo morì, cosa avuto ciò facì. Cari amiche e cari amichesse, ma soprattutto donne, è tornato folk. Oddio, nel colore stavolta che più di tutti ci ricorda il femminile, e cioè il verde. E oggi qui raccontiamo storie di donne che si raccontano in prima persona, raccogliamo canti con protagoniste donne, sempre nei solchi purtroppo della tradizione, che è tradizione patriarcale, che le stereotipa spessissimo, quasi sempre, ma vedremo non solo nei ruoli di moglie e di madre, per fortuna c'è qualche eccezione, e comunque ci piace oggi presentare canti in cui le donne in qualche modo si autodeterminano, ed è bello ricordarlo a 2 giorni dall'anniversario della vittoria nel referendum abrogativo sul divorzio del 12 e 13 maggio 1974. Ma prima di divorziare e di autodeterminarci, parliamo invece di volontà divina e di matrimonio. E questo pezzo che stiamo per sentire lo dedichiamo a una chitarrista storica di L.A. Tina, Marcuse, che sicuramente sa suonare il galeone. Spero che conosciate il galeone e lo sappiate suonare anche voi, perché questa canzone è niente di meno che la mamma del galeone. Si fa sui soliti 3 accordi di si minore, fa diesis maggiore, si minore, mi minore, si minore, è un valserino, ta, e via dicendo. E qui sentiamo, eseguita dal canzoniere del Lazio, sempre dal primo disco Quando nascesti tu, del 1973, Se tu ti fai monaca. Fai monaca, convento te ne vai, io mi faccio prete, ti vengo a confessare. Se tu ti fai prete, mi vieni a confessare, io mi faccio stella, nel cielo me ne vado. Se tu ti fai stella, nel cielo te ne vai, io mi faccio luna, ti vengo a pigliar. Se tu ti fai luna, mi vieni a pigliar, io mi faccio pesce, fai pesce, nel mare te ne vai, mi faccio pescatore, ti vengo a pescare. Se tu ti fai pescatore, mi vieni a pescare, io mi faccio rosa, al giardino me ne vado. Se tu ti fai rosa, te ne vai, mi faccio giardiniere, ti vengo a coltivare. Se tu ti fai giardiniere, mi vieni a coltivare, io mi faccio uccello, nell'aria me ne vado. Ti fai uccello, nell'aria te ne vai, mi faccio cacciatore, ti vengo a sparare. Così destina e Dio, ci dobbiamo sposare. Così destina e Dio, ci dobbiamo sposare. Abbiamo ascoltato Se tu ti fai monaca, cantava e suonava il canzoniere del Lazio, canzone che probabilmente nella tradizione era percepita semplicemente come romantica, ma che in pratica ci presenta donne che scappano e uomini che acchiappano e una conclusione della storia che è il matrimonio. Contrasto impressionante con le parole che poi questa melodia ha accolto più tardi, che invece sono quelle di uno dei canti anarchici più celebri, appunto il Galeone, che per chi non lo sapesse è una poesia composta alla fine degli anni 60 da Belgrado Pedrini, ex partigiano anarchico in carcere quando compose le parole del Galeone e adattata alla melodia di Se tu ti fai monaca da una cantautrice anarchica anche lei che è Paola Nicolazzi e qui siamo su Folk Oddio presentato dalle canzoniere, chi vi parla è la Carlessa assieme alla sua ragazza immagine radiofonica Lesa Maestà, entrambe di Tavolo Transfemminista Queer Macao che proprio oggi 9 maggio doveva uscire assieme a un sacco di altre realtà a livello transnazionale con una grande azione che è Marciona, ma però, viste le circostanze, le quarantene e compagnia bella, come azione in strada non esce, ma ha comunque prodotto in questi mesi tantissime cose, tantissime assemblee e dibattiti che potete rintracciare facilmente se andate a visitare il blog, anzi la blogga marciona.noblogs.org. Quindi cogliamo l'occasione di questa puntata verde Donna e me ne vanto per parlare anche un minimo di transfemminismo queer, o meglio per farvi questo invito, prima di tornare a parlare di matrimoni, stavolta matrimoni un po' più autodeterminati, sicuramente una canzone che ci presenta una figura femminile più interessante e anche al mio marito. Cosa succede se al tuo marito gli dicono di partire per la guerra? Questa è una canzone toscana che ascoltiamo adesso, eseguita da Giovanna Marini assieme al coro Digni e Canti di Lotta e la banda della Scuola di Musica Popolare di Testaccio. Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scusatemi. Esiste fatta anche dai Canusia che sentiremo più avanti, dalle The Soda Sister che abbiamo sentito 2 puntate fa, però ve la presentiamo in questa versione, cantata da varie voci tutte toscane, è cantata purtroppo registrata un po' male, ma se volete provare a seguirla siamo in Si maggiore, gli accordi sono Si maggiore, un Sol diesis di transizione, Do diesis minore, per tornare a Fa. Settima, fa diesis settima e uffa, questa era minore, si maggiore e anche al mio marito. Questa era E anche al mio marito, spudiamo su Cadorna, ma ribellioni a tutti i capitani, ci piace ricordare, e adesso cominciamo un attimo la nostra carrellata di donne un po' più determinate, spesso anche armate di qualcosa di tagliente, cominciamo con la storia di Cecilia, che che condivide la trama niente meno che con la Tosca. Qua abbiamo una donna che in pratica accetta di fare da merce di scambio col consenso del marito per un capitano che promette a lei la libertà del marito in cambio di sesso. E, il capitano alla fine il marito lo uccide comunque e Cecilia uccide il capitano. Adesso la sentiremo in due versioni, la prima del 1964 con un esordiente Gabriella Ferri che canta assieme a Luisa De Santis con cui all'epoca ancora era in duo e la seconda invece dai Canusia che abbiamo già ascoltato nella prima puntata gialla di Folk, Oddio, sempre dal loro primo disco Fiore di Cardo del 2015. E quindi ecco qua le due versioni della Cecilia, o la povera Cecilia. Per seguire la prima, suonate in Do minore, sempre i soliti tre accordi del giro minore, Do minore, Sol maggiore, Fa minore, Do minore, e via dicendo. La seconda invece è in Si minore, cambia tonalità, è in Si minore e poi in Re minore. La parte in Si minore è Si minore, molto a lungo. Mi minore e chiude Si minore, Fa maggiore, Si minore e quando si sposta è sempre la stessa cosa, spostate il Re minore, quindi Re minore, allunghetto, Sol minore, Re, La, Re. A un certo punto quando scatta il momento drama tra il Re minore, cioè anche tra il Re minore e il Sol minore, c'è anche un Fa maggiore. Comunque, adesso non perdiamo troppo tempo, chitarrine alla mano, ascoltiamo e torniamo dopo le due versioni della Cecilia, prima fatta da Gabriella Ferri e Luisa De Santis e poi eseguita dai Canusia. La povera Cecilia che ha perso il suo marito, gli era presso prigione. Favori te le faccio. così tu la fai a me. Vieni da me stanotte col capitan del re. Signore capitano, se tu vuoi va così, lo banco di a papino se invece va a dormire. Senti marito, senti, senti che c'ho da lì. C'è il capitan maggiore, salva la vita a te. Faccia, faccia Cecilia, faccia pure a dormire. Ma vestiti da sposa, se fece compari. La camicetta rosa, la festa di gama. Alla bianca lenzuola, fateci le posa. Cecilia fa un sospiro, sento una pena al petto, mi pare le mori. Zitta, zitta Cecilia, non dormi e vai a dormire. Cadi domani all'alba, rivede tuo papi. Alla mattina all'alba, Cecilia va al balcone. No, principe e baroni, manco se fosse me. Mi prendo l'occa e fuso, mi cambierò da me. Zitta, zitta Cecilia, che non parla così. Tra le carceri scure invece farò venire. Sì, le carceri scure vuoi far venire. Prese il pugnale Cecilia e il capitan ferì. Prese il pugnale Cecilia e il capitan ferì. E questi due pezzi che abbiamo sentito erano La Cecilia suonata e cantata da Gabriella Ferri e Luisa De Santis nel 1964, e La Cecilia nella rielaborazione che hanno fatto i Canusia nel 2015, del canto, così come è stato raccolto invece sempre dalla nostrissima amatissima Graziella Di Prospero, che l'aveva pubblicato nel 1978 sul suo ultimo disco, In mezzo al petto mio c'è sta un serpente. Vi dico un attimo com'è quest'ultima melodia della Cecilia, così come la fanno i Canusia e la raccolta Graziella Di Prospero, ed è che segue la versione di Graziella Di Prospero è un po' bizzarro perché rallenta alla fine. Praticamente è quasi come se invece di essere tutta in quattro quarti inserisse una battuta in cinque quarti e viene fuori. Prendiamo qualche strofa con il testo evocativo, tipo: Schifoso capitano, m'hai saputo tradì. Hai tolto a me l'onore e la vita al mio papì. Zitta Cecilia, e non parla così, che principi e baroni con te vanno venire. Bellissimo anche il pezzo in cui le dice: Che principi e baroni, ma cosa fosse il re? Mi prendo mi gabberò da me. E quindi niente, c'è questa battuta che fa dum tata po po po po, dove dum è una semiminima, tata le crome, e po po po po sono le quattro semiminime di una quartina che prende gli ultimi tre tempi di una battuta in cinque quarti. Vabbè, qua pare che stiamo a parlare di King Crimson invece che di Graziella Di Prospero. Ad ogni modo, gli accordi sono quelli che vi ho detto prima. Passiamo avanti e passiamo alla versione laziale di un canto diffusissimo, già raccolto in altri dialetti alla fine dell'Ottocento, in questa versione che stiamo per sentire in romanesco invece all'inizio del Novecento. Appunto, il tema e il testo sono molto diffusi. La musica invece che stiamo per ascoltare è originale, composta da Gabriele Modigliani, per appunto La Piazza, che è la formazione con cui suona in questa esecuzione qua. Alla voce c'è sempre Sara Modigliani, che cantava anche con il Canzoniere del Lazio. Questo pezzo si chiama Manpresa ed è la storia di una ragazza che si difende da sé. Certo, sarebbe meglio che essere donna non fosse una condizione che debba mettere qualcuna nella necessità di doversi difendere, però se bisogna, meglio sapersi difendere come la nostra Manpresa. E la musica, appunto, originale della ballata è, anche se su questo discorso di cos'è e cosa non è originale nella cosiddetta musica popolare, di cosa è, diventa o non è popolare, bisognerebbe tornare, però forse non è proprio roba da folk, oddio, che state ascoltando in questo momento, vi ricordo. E comunque gli accordi qui sono Si minore, Fa diesis minore, maggiore, Si minore, Re maggiore, La maggiore, Re maggiore, Mi minore. Mi sembra anche Fa diesis maggiore di nuovo e si chiude Si minore, La, Si minore. C'è uno stacchetto maggiore e mezzo. Si, la, si, tutto maggiore, con un tocco di modo lidio anche all'interno che fa tanto melodia tradizionale del centro-sud. Vabbè, comunque, insomma, bando alle ciance, La Piazza, 1997, Manpresa. Quella che abbiamo sentito era Manpresa, eseguita dalla Piazza, bella perché lei si vendica da sola, una versione più fiabesca di quella della Cecilia che abbiamo sentito prima. Però appunto tutto questo parlare di matrimonio ci fa chiedere anche cosa dicono le madri del matrimonio. E adesso qua su Folk, oddio, dove siamo? Vi ricordo che ci potete scrivere a folk.oddio@canaglie.org. Ascoltiamo una raccolta di stornelli in cui la voce che canta è una voce di figlia che rifiuta il lavoro, se ne frega, diciamo, dice alla mamma che cosa preferisce, chi preferisce sposare, e preferisce sposarsi i butteretti de montagna, non gli sbirri. E questo è un rifacimento con strumenti un po' modernati, sempre di stornelli raccolti da Graziella Di Prospero. Stavolta suona e canta la banda Iorona, di nuovo anche in questa puntata, di nuovo dal primo disco romano. Si suona tutto in si bemolle maggiore, ma quello era un si maggiore, si bemolle maggiore, fa maggiore, cose qua, e ogni tanto ci mettiamo anche il mi bemolle maggiore. Questo tipo di cosa qua, tipica degli stornelli. Insomma, stiamo per sentire la pizza calla calla, la torta calda che lui non assaggerà mai, perché no è no. Lo tengo rinserrato dentro un fiasco, così l'estate si mammina fisco. Dai, dai, dai, che la terra posso fare, lo posso fare, ci fanno cose, posso scomparare. Lessa, lessa, lessa, quattro mamma da cinque, essa, essa, essa, non si accorge, quattro mamma da cinque, sorda. Tu lalla, morirai senza assaggiarla. Ma che, ma che, ma che? La pizza gorzi, bimbo, galla, galla, ammassata con le mani della mia bella. Dai, dai, dai, ci vuole forza a fare qua, si interrompe la noce del collo, chiama da me che te l'hanno. Carabiniere! Non me lo dà lo sbirro, che vergogna! Dammi lo bruttaretto di campagna! Dai, dai, dai, chi la terra forza fa? Ne forza fa, ci guarda, poi se forza sfumata! Lissa, lissa, lissa, quattro mamma da cinque, essa, essi, essa, non s'accorgia, quattro mamma da cinque, sorda! Tu lalla, morrai senza assaggiarla! Mama sfasteriata. Non me lo dice più lavora figlia, che più lavora e più so poverella. Nai nai nai di la terra volta va, la volta va ci quando poi se porta su volà. Lissa lissa lissa quattro mamma da cinque essa e si essa non sa cosa quattro mamma da cinque sarà. Tullalla tullalla morrai senza assaggiarla. Maghe, maghe, maghe. La vizza gorzi, bimbo, galla, galla, ammassate per le mani della mia bella. Nai, nai, nai, zoppa di passa, passa di qua, se te rompe la voce del collo, chiama da me per te, no, no. Un vero pozzo di carme se ciuba. Un vero pozzo di carme se ciuba. Si chiama Gerzo. E questa era la pizza Galla Galla, rifacimento della banda Iorona di stornelli raccolti da Graziella Di Prospero e pubblicati sul suo primo disco del 1975, Tengono Bove si chiama Rosello. E passiamo invece adesso a parlare di amori e di lavori, dei maschi che ti mettono le mani sotto i vestiti e dei pericoli di uscire la sera. E già che il 12 e il 13 maggio ricorre l'anniversario della vittoria al referendum sul divorzio del 1974, ricordiamoci di Giorgiana Masi, uccisa dallo Stato la sera del 12 maggio del 1977, in occasione degli scontri per una manifestazione, oggi diciamo di più assembramento, in un momento in cui il ministro dell'Interno, Francesco Cossiga, il diritto a manifestare lo aveva sospeso nel Lazio. E quindi preparatevi. Mi minore e si settima, mamma non mi mandà fuori la sera, che ci canta Caterina Bueno, e la dedichiamo anche un po' a lei, Giorgiana Masi, uccisa a 19 anni, la sera del 12 maggio 1977. Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina e non mi so badare, c'è giovinotti fuori di maniera, noiosi mi vorrebbero baciare. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non ti vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Mamma non mi manda la fornacina, ce l'hanno costruiti tre cancelli, quello di mezzo ci passa il padrone, quelli alla proda i giovinotti belli. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non ti vedere, e quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Mamma non mi mandare all'amporecchio, perché ce n'è di sabbia e del padule, mi dicano le cosine in un orecchio, le mani voglian tenere sotto il grembiule. nuvole. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non ti vedere. E quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina e non mi so badare. Se puta caso trovo un militare, oh mamma mi potrebbe rovinare. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non ti vedere. E quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. Oh mamma, mamma, nulla rigirare, col dimmi devi fare, non devi fare. Non me lo dire più, lavora bimba, so piccolina e la gioco alla donna. E quando vedo te, io chiudo gli occhi per non ti vedere. E quando ti vedo là, io chiudo gli occhi per non ti guardare. E abbiamo ascoltato da un album che si chiama Eran tre falciatori, pubblicato nel 1973, di Caterina Bueno, che ha raccolto il canto e lo esegue. Mamma non mi manda fuori la sera, canto, come avrete capito, toscano. E, insomma, Nascere donna, i testi che sentiamo non riflettono certo Simone de Beauvoir o Monique Wittig. Donna si diventa, non si nasce, ma in molta società patriarcale tra nascita clinica e divenire donna non ci sono momenti di autodeterminazione. E se nascere donna tocca che sia pure una condizione dalla nascita, perché comunque non vantarsene. E ce lo cantano questi stornelli, che tra l'altro sono anche pubblicati come illustrazione in un'edizione, il testo è pubblicato come illustrazione in un'edizione della Cucina Romana di Ada Boni, grande Ada. Qua stiamo ascoltando Folk Oddio, scriveteci su folk.oddio@canaglie.org e preparate le chitarrine, perché qua ci canta in fa minore, si bemolle minore, do settima, fa minore, diventa tutto un comodissimo mi minore, si settima, e vabbè, mi minore, la, si settima, però se volete seguire siamo in fa minore. E questi stornelli, che contengono il titolo della puntata di oggi, Donna e me ne vanto, e finalmente sentiamo la sua propria voce, proprio di Graziella Di Prospero, che canta Sonnata sfortunata. Sonnata sfortunata in belle fasce, eppure la barbuccia me lo disse, eppure la barbuccia me lo disse, ecco la nardra fe che nasce, e beh, sonnata donna in mano avanto, e me ne voglio andare lontano tanto, e me ne voglio andare lontano tanto, a dove non m'arriva siamo donne sì e non tremamo, e lo spadino in testa lo tenemo, e lo spadino in testa lo tenemo, e il cortelluccio in petto torcerci in mano. Noi siamo donne, sì, noi siamo donne, all'indica ci andiamo senza lacrime, all'indica ci andiamo senza lacrime, siamo più forte noi che le e chi può male a noi, sassata in petto, o puramente senza fiato affatto, o puramente senza fiato affatto, poi ci riversi in gran tormentar petto. E quella che avete appena sentito è Sonnata Sfortunata, raccolta da Graziella Di Prospero e pubblicata nel suo ultimo disco del 1978, In mezzo al petto mio c'è sta un serpente. Interessante il tema della coltellata come soluzione all'eteropatriarcato, che è sempre una soluzione raccomandata nei canti che ci piace presentare qua a Folk. Oddio, e ce la raccomandano anche le femministe del movimento femminista romano attivo a Roma negli anni 70, e in questo canto, dove probabilmente a cantare è Fufi Sonnino nel 1973, in un'autoproduzione delle Compagne Romane e in Si bemolle minore, Si bemolle Fa maggiore, Mi bemolle minore, Do settima, sto Do settima perché ce l'ho messo, secondo me sto leggendo una cosa che mi era appuntato ma non c'è, sono i tre accordi che abbiamo detto prima, Si minore, Si bemolle minore, Fa maggiore, Mi bemolle minore, in pratica qua è come suonare il La minore tenendo sempre un bel resto sul primo tasto. Vabbè, di nuovo tagliamo corto su queste cose qua, potete anche semplicemente sedervi ed ascoltare questo che si chiama Il tango della femminista. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista, tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista, tango della ribellion. Con la chioma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. Desta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente perché sa che se donna è una conquista l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Tango della femminista, tango della ribellion. Insomma, care amiche e care amiche, stiamo arrivando alla conclusione della puntata verde di Folk Oddio, puntata numero 4. E con questo pezzo che ci ha trasportato decisamente a Roma, non che gli altri non fossero un po' romani pure loro, e ci avviamo a concludere, chiaramente già che parliamo di coltellate non poteva mancare la pezza principe di tutta questa puntata, la pezza principessa, anzi scusate, di tutta questa puntata, che è Te possino da tante coltellate, pezzo portato alla celebrità da Gabriella Ferri, popolarissimo sicuramente nella zona di Roma, una compagna con una bella capigliatura bionda, molto Gabriella Ferri, a cui dedichiamo adesso questo pezzo ce lo presentava come raro, ma eravamo qua al nord, io non so qua a Milano che succede, certe volte veramente non capisco. Comunque, niente, questi sono stornelli che parlano in una trasteverina. Gabriella Ferri rivolge anche parzialmente al maschile, ma ve li facciamo forse sentire in due versioni se abbiamo tempo. E quindi state sintonizzate, la prima versione però è tutta al femminile, è in re minore e la maggiore, bastano due accordi per fare questa cosa qua. E lo eseguono al Montecatini Festival del 1977, e attenzione, Montecatini con la Y alla fine, non ci siamo inventate niente. Due sorelle, una delle quali aveva cantato già con Gabriella Ferri proprio il repertorio della tradizione romana, l'altra sicuramente è meno nota per il canto della tradizione, ma sicuramente sono notissime entrambe, niente meno che Mia Martini e Loredana Bertè al Montecatini Y Festival del 1977, te possino da tante cortellate. Cortellate quante ne volete. Per bene che te voglio, non lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa mozzata e Nico. Se facci notte, vanna via da sola, da sta parte, vanna via da sola, da sta parte, m'è venuta la smania e te la morte. Care amiche e care amichesse, allora abbiamo appena ascoltato Mia Martini e Loredana Bertè che cantano Te possino da tante cortellate a Montecatini con la Y Festival del 1977, e vedo che ci avanza abbastanza tempo per fare qualche osservazione di chiusura e anche per passarvi Te possino a tante coltellate cantata proprio da Gabriella Ferri. Osservazione di chiusura. Prima, innanzitutto, nella Cecilia vi ho dato un giro con un Do maggiore, che poi fa Do maggiore. E quel